un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e bentornati alla decima puntata dedicata alla lettura del romanzo Extenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di quella che ho definito la mia versione di fantasy, cioè che cosa mi ha influenzato nella stesura dei miei romanzi. Oggi vorrei invece parlare del bestiario di Notturnia. Ogni romanzo, o ancora di più ogni saga fantasy, vengono caratterizzate dalle creature che ne popolano le pagine. Che siano antagoniste oppure alleate dei protagonisti, oppure in alcuni casi essi stessi siano protagoniste, come gli elfi di Shannara o i nani della saga della Terra Nascosta di Marcus Seitz. Le creature diverse dagli uomini sono, direi, fondamentali nella narrazione di un fantasy degno di tal nome. La selezione di queste creature modifica in maniera fondamentale non solo una narrazione, ma anche l'ambientazione dei romanzi. Io, come accennato nella scorsa puntata, ho letto un po' tutti i classici, ma sono stato comunque influenzato molto più da Robert Erwin Howard che da Tolkien. Dunque, nei miei romanzi non trovate elfi, nani, troll, hobbit o altro. Tutti i protagonisti e gli antagonisti sono umani, oppure creature delle tenebre, cioè esseri che non esistono in natura, neppure quella fittizia del mondo da me inventato, ma che sono stati creati dalla magia oscura. Anche così avrei potuto scegliere tra un altissimo numero di creature che fanno parte delle tante mitologie esistenti, oppure di quella, se vogliamo chiamarla così, sovramitologia creata dai giochi di ruolo e dai molti romanzi e film fantasy che ingloba la precedente e la espande. Non nego che ho letto e riletto il Monsters Manual di Dungeons & Dragons in cerca di ispirazione. Alcuni autori tendono a non inventarsi nulla e a riciclare la effettivamente grande varietà di creature e mostri che i lettori già conoscono. Altri invece tendono a mescolare il conosciuto con l'originale. Uno per tutti, Martin, nel famosissimo Trono di Spade, unisce a zombie, draghi e giganti gli estranei, che sono il tocco originale dell'autore. Per quanto mi riguarda, ho cercato di rifuggire il più possibile dallo standardizzato, pescando con parsimonia dal già visto e cercando il più possibile di essere originale. Anche quando non inventavo, ho cercato di modificare se non altri nomi. Così, tanto per fare esempio, gli zombie sono diventati risorti, le banshee sono diventate fatue e così via. In alcuni casi non sono riuscito a trovare un nome che mi piacesse. Gli esseri sono rimasti con il nome originale, i Kraken, i basilischi Notturnia o i vampiri e ghoul nel Libro delle Ombre, per esempio. Ma in ogni caso ho cercato di caratterizzare le creature in modo da differenziarle almeno un pochino dagli stereotipi originali. Quello che più hanno apprezzato i miei lettori sono le creature originali. Ombre, diafani, divoratori, caligini, evanescenze, fauci delle sabbie, flagelli, furie e via dicendo. Ovviamente non è che si possa creare un intero bestiario dal nulla, e tutte queste creature hanno qualche ispirazione, magari prendendo a prestito caratteristiche da esseri diversi, letture lontane per genere nel tempo. Di alcune sono perfettamente conscio, di altre no. Per esempio le fauci delle sabbie sono molto simili ai vermoni di Dune, oppure la morte strisciante che mi è venuta in mente ascoltando il brano Creeping Death di Metallica. Va bene, anche per oggi abbiamo finito di chiacchierare. Possiamo passare alla lettura della decima puntata del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 10. L'esercito dei negromanti sbucò all'improvviso dalla bruma che copriva le colline e in pochi istanti la piana desolata brulicò delle sue avanguardie. I risorti procedevano silenziosi, i loro visi deturpati dalla morte e mangiati dai vermi. Avevano le bocche distorte come per lanciare urla disumane, ma erano silenziosi come il regno dal quale erano stati richiamati. Brandivano ogni tipo di arma, di preferenza spade e mazze, più facili da usare per le loro limitate capacità di combattimento. Avanzavano all'unisono, seguendo il ritmo di enormi tamburi che risuonavano cupi, percossi con regolare violenza da schiavi nerboruti. Sopra di loro volteggiavano legioni di spettri e si agitavano come api impazzite pregustando la battaglia, i loro lamenti lugubri più del tuono dei tamburi. Alle spalle di tutti c'erano centinaia di negromanti, vestiti con sudici mantelli grigi. Ognuno di loro aveva in mano un oggetto di potere e mediante essi controllavano e sospingevano l'enorme moltitudine del loro esercito. Distavano qualche decina di metri l'uno dall'altro, formando una lunga catena dietro le linee dei combattenti. La spina dorsale delle truppe di Vama. Ustia controllava le sue truppe dalla torre di osservazione e di tanto in tanto sussurrava qualcosa. Il suo potere necromantico permetteva a quelle parole appena mormorate di giungere all'orecchio del destinatario, dovunque egli fosse. Il generale si guardava attorno nervoso. Perché non si mostravano? La nebbia color inchiostro che avvolgeva l'esercito di Shaltul non lasciava vedere alcun movimento, ma era certo che dietro di essa le attività fossero altrettanto febbrili di quelle che fervevano nel sud. Poi, all'improvviso, i cieli si squarciarono e legioni di incubi piovvero su di loro. La sorpresa rischiò di far rompere le sue avanguardie, che sbandarono paurosamente. I demoni alati piombavano in picchiata sui risorti delle prime file e tranciavano di netto con enormi spade nere il loro collo, prima che potessero reagire. Le teste rotolavano come sassi scagliati da mani folli e i corpi crollavano come sacchi vuoti. Era l'unico modo per far ritornare i risorti a essere dei semplici cadaveri e gli incubi lo sapevano bene. Ustia sbraitò un ordine e gli spettri reagirono. Ondeggiarono portandosi a formare una specie di cuscinetto protettivo sopra le falangi dei risorti. Ogni volta che un incubo tentava di infilarsi tra le loro file, due o tre di loro lo circondavano e lo trascinavano giù, ponendolo alla mercé delle truppe di terra. Dopo aver subito le prime perdite, gli incubi si ritirarono. Avevano ottenuto l'effetto che volevano, portare scompiglio e devastazione. Le prime file dell'esercito di Vama erano state decimate, e i necromanti faticavano a mantenere la disciplina tra i risorti che procedevano qua e là senza alcun ordine né direzione. Dalla nebbia che copriva le colline di fronte, si espanse verso di loro una massa scura come un'enorme macchia d'olio. Il generale Ustia aguzzò la vista, ma ben presto fu chiaro a tutti di cosa si trattasse. I latrati feroci giungevano distinti sino alle sue orecchie, mastini degli abissi, la cavalleria leggera dell'esercito di Shaltul. L'ondata arrivò violenta sulle file dei risorti, che oscillarono a lungo sul punto di cedere. I mastini si avventavano su di essi troppo veloci perché le loro braccia irrigidite riuscissero a portare colpi precisi e letali. Con gli occhi fiammeggianti dall'odio sbranavano qualsiasi cosa si parasse loro di fronte e aprivano squarci enormi tra le linee nemiche prima di essere travolti e abbattuti da dozzine di risorti che li abbrancavano e trascinavano a terra, dove li finivano a colpi di spada e di mazza. Ma Ustia quel giorno aveva una sorpresa in serbo per l'esercito degli evocatori. Quando i mastini furono passati oltre la grande roccia nera che campeggiava al centro della piana desolata, sussurrò un ordine. Decine di necromanti cominciarono a salmodiare un incantesimo di richiamo. La terra ai piedi della roccia cominciò a vibrare, dapprima in maniera appena percettibile, poi sempre più forte, fino a tremare in maniera visibile anche dalla torre dove il generale osservava la battaglia. Centinaia di ossa spuntarono dal terreno. Alcune erano ancora bianche e avevano qualche brandello di carne rinsecchita ancora attaccato. Altre erano molto più antiche e avevano un colore marrone scuro, quasi nero. Dapprima erano sparse qua e là, senza alcun ordine, come disperse dalla furia di un gigante impazzito. Poi il potere necromantico degli uomini incappucciati comandò loro di congiungersi. I primi scheletri interi cominciarono a trascinarsi fuori dalla terra, raccogliendo le armi dei caduti che punteggiavano il terreno. Quelli che non trovavano un'arma raccoglievano delle pietre o dei bastoni. In un silenzio agghiacciante che contrastava con il latrare furioso dei mastini e il tuono lugubre dei tamburi, gli scheletri si allontanarono dall'antico ossario dove avevano riposato per anni, alcuni per secoli. Si diressero verso le spalle dei mastini degli abissi, rabbiosamente impegnati a gettare scompiglio tra le file dei risorti, stringendoli così in una morsa dalla quale non si sarebbero potuti liberare. Quando gli evocatori che controllavano i mastini si accorsero della trappola, era troppo tardi. Gli scheletri si lanciarono all'attacco e i demoni vennero separati gli uni dagli altri e massacrati. Ma nel frattempo la nube nera, che prima copriva i colli oltre la piana, si era avvicinata. Adesso era a ridosso delle truppe che combattevano. Il generale stava osservando soddisfatto il massacro dei mastini, ma quella massa color inchiostro che incombeva sul suo esercito lo metteva a disagio. Anche Shaltul doveva avere in mente qualcosa e temeva di non dover attendere a lungo per scoprire cosa. Come per confermare i suoi timori, la nube si alzò all'improvviso come la tenda di un enorme teatro e da dietro di essa piombarono sul suo esercito giganteschi demoni a forma di rettili a due teste. Erano alti come quattro uomini, lunghi forse una dozzina di metri, ma si muovevano sulle agili zampe con una velocità insospettabile. Le possenti code spazzavano via i risorti e gli scheletri della sua avanguardia come fossero fatti di carta. Abiezioni. Ustia maledisse gli evocatori che erano riusciti a richiamare demoni così potenti dagli abissi. Dopo il brillante inizio, il suo esercito rischiava di andare in rotta se non fosse riuscito a fermarli. Chiuse gli occhi, tentando di isolarsi dalla battaglia che infuriava attorno a lui. Le abiezioni erano demoni difficili da controllare, non bastava un solo evocatore a farlo. Se fosse riuscito a trovare uno dei circoli che li stava guidando, lasciò vagare la sua mente lontano da lui, cercando di percepire il potere oscuro emanato dagli evocatori. Doveva localizzarli velocemente, perché sentiva che le abiezioni stavano spargendo la devastazione tra le sue file. Per un attimo fu attratto da qualcosa di strano. Era come se nelle vicinanze ci fosse qualcuno che aveva un'enorme quantità di potere oscuro dentro di sé, ma che non lo stava usando. Era forse un nuovo trucco degli evocatori? Ma no, non sembrava. Non riusciva a capire. In quel momento un'abiezione si scagliò contro un gruppo di risorti, lanciando un potente ruggito che risuonò su tutta la piana desolata e lo spazzò via. L'attenzione di Ustia fu di nuovo catalizzata dalla battaglia. Per ora, chi non usava il potere oscuro non costituiva un pericolo, per quanto potente fosse. Doveva sbrigarsi ad intrecciare i circoli, ma dove erano? Un'immagine improvvisa riempì la sua mente. Eccoli. Quattro uomini stavano in piedi tenendosi per mano, attorno a un braciere che spandeva fumo grigio scuro. Erano così concentrati che non si accorsero che l'occhio necromantico di Ustia li stava scrutando. Ora sapeva dove erano. Fece un gesto e una ventina di fatue ondeggiarono prima di smaterializzarsi. Apparvero un istante dopo attorno al circolo, i cui componenti erano ancora ignari di quanto stava loro per succedere. Il canto si alzò in cielo armonioso e potente. Gli evocatori portarono le mani alle orecchie nel vano tentativo di tapparle per non permettere al suono di penetrare nel cervello e di succhiare loro via la vita. Inutile. Bastarono pochi istanti e l'abiezione controllata da quel circolo si imbizzarrì e cominciò ad attaccare una sua simile. Come in uno scontro tra titani, i due demoni si avventarono l'uno sull'altro e, rotolando, portarono la distruzione attorno a loro. Due di meno. Ma sarebbe stata dura fermarli prima che il suo esercito fosse sbaragliato. Doveva localizzare gli altri circoli, ma nel frattempo trasmise l'ordine perché le truppe ripiegassero. Dopo ore di combattimento, la piana era letteralmente coperta di risorti fatti a pezzi e demoni smembrati. I quattro avevano assistito per tutta la giornata agli scontri fra i due eserciti, appostati sulla cima di un colle che permetteva una vista perfetta della piana desolata. Diana e Tom avevano osservato con orrore e incredulità le orribili schiere che si erano scontrate all'interno della vasta depressione. Risorti che combattevano sfidando le leggi della morte, incubi assettati di sangue, spettri e molti altri esseri ai quali non avevano neppure saputo dare un nome. Nonostante cominciassero ad accettare entrambi, loro malgrado, quel mondo intriso di magia maligna, ognuno di questi esseri aveva il potere di suscitare in loro sconcerto e terrore. Diana aveva pianto silenziosa cercando di non farsi notare dagli altri. Per lei l'orrore era doppio, visto che il suo destino era comandare quelle legioni spaventosi o morire rifiutandole. Al loro sguardo stupefatto e smarrito faceva da contraltare quello spento e assuefatto di Arla e Eliel. Nulla sembrava scomporli, c'erano abituati. Solo quando irruppero in battaglia le abiezioni, sbucando dalla nebbia color inchiostro e devastando le avanguardie dell'esercito dei necromanti, il loro sguardo si fece più intento e interessato. Dovevano essere demoni che non avevano mai visto. La prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, che nessuno conosceva fino in fondo i poteri delle confraternite. Diana peggiorò improvvisamente quando la battaglia stava per terminare. Poco prima che le abiezioni cominciassero a masticarsi fra di loro, tutti e quattro sentirono distintamente un soffio gelido sulla nuca che fece venire loro la pelle d'oca. Fu solo un attimo e nessuno ne riportò alcuna conseguenza, tranne Diana. La ragazza barcollò all'improvviso portandosi le mani al ventre e impallidendo di colpo. Tom se ne accorse, le fu accanto in un balzo. «Diana!» In un attimo anche Arle e Liel le furono accanto. Gli occhi del ragazzo, sgranati, splendevano nel buio che stava calando. «Sto meglio», disse a mezza voce Diana. «È stato come se un male potente mi passasse accanto, ma ora non è più qui». I tre annuirono. Anche loro avevano percepito quel velo malvagio che li aveva sfiorati. Non c'era da stupirsi. Nella piana quel giorno era stata utilizzata una quantità enorme di potere oscuro e certo la ragazza non poteva rimanerne immune. Comunque sembrava aver ripreso almeno in parte i colori e questo li tranquillizzò. «Vado in perlustrazione», disse a quel punto Arla, alzandosi dopo aver lanciato un'ultima occhiata a Diana. «Entro un paio d'ore dovremmo muoverci di qui e voglio capire che situazione ci troveremo davanti». Scosse la testa quando vide Liel alzarsi per seguirla. I loro sguardi si incrociarono per un attimo e il ragazzo si rimise seduto. Arla sguainò la spada e si infilò nel folto della selva, sparendo in pochi istanti dalla loro vista. Tom evitò di guardare Liel e si sporse appena dal costone su cui si trovavano. Dopo che le abiezioni si erano massacrate tra di loro, spargendo la distruzione tra le file di entrambi gli eserciti, i comandanti dovevano aver ritenuto sufficienti i combattimenti per quel giorno e avevano ordinato la ritirata. Il fetore di putrefazione dei risorti, tornati a essere semplici cadaveri decomposti, unito al tanfo acre del sangue dei demoni abbattuti, aleggiava sulla piana cosparsa di corpi. se non avesse tenuto sotto il naso per tutto il giorno le foglie di Veltoriana che Arla aveva procurato loro, era sicuro che sarebbe svenuto. E mancava ancora la parte peggiore. Entro un paio d'ore avrebbero dovuto passare alle spalle delle linee dell'esercito dei necromanti e attraversare la piana cosparsa dei morti. Rabbrividì. Quel mondo macabro ostile non finiva di causare dire il capriccio. Rosamano cercò inconsciamente il varco, la sua via d'uscita da quella pazzia. Ogni tanto pensava al fatto che sarebbe bastato versarci sopra qualche goccia di sangue per mettere fine a tutto. Era un potere enorme che stentava a tenere sotto controllo in momenti di paura e di scoramento come quello. Il potere di decidere che era stufo di un destino e ne voleva un altro. Ma forse non era ancora giunto il momento di farlo. Si girò verso Diana, che gli rivolse un lieve sorriso. Arla sbucò fuori dalla selva, silenziosa come un fantasma, mentre sotto il costone dove erano nascosti brillavano le decine di fuochi dell'esercito accampato. Tom aveva notato che i risorti erano tornati immobili come statue e spettri e fatue si erano disposti lontani dai falò, a formare un grande cerchio protettivo esterno, lontano dalle fiamme che tanto temevano. La donna aveva con sé dei panni color grigio, fumo, lerci e maleodoranti, che gettò a terra in mezzo a loro. Erano quattro tuniche di tela grezza, corredate di ampi cappucci. Erano incrostate di sangue coagulato, ma c'era anche qualche traccia fresca. Nessuno chiese che fine avessero fatto i legittimi proprietari delle vesti. «Indossateli», disse loro Arla, senza tanti preamboli. «Se passiamo lontani dai falò, nessuno capirà che non siamo necromanti». «Com'è la situazione là sotto?» chiese Tom. «Gli uomini sono stanchi per oggi e preoccupati per domani. Nessuno farà casa a noi». «Gli uomini», osservò Eliel. «Ma non ci sono solo uomini là in mezzo. Cosa ti fa pensare che il nostro odore sia abbastanza simile a loro da permetterci di passare inosservati?» «Dovremmo correre il rischio. O forse il nostro risorto ha qualche altra idea migliore?» Forse si aspettava che il ragazzo reagisse e sguainasse la spada, forse lo sperava. Una traccia di delusione le apparve in volto quando il lampo di rabbia che era apparso negli occhi turchesi di Eliel svalì. Il ragazzo non disse nulla. Tom si mise fra i due, prendendo una delle vesti sudice e cominciando a infilarsela. Diana si alzò barcollando appena, poi lo imitò. Trattenne a stento un conato di vomito quando le sue narici furono ferite dal lezzo immondo che spargevano quegli stracci. Dopo pochi attimi tutti e quattro si erano infilati le tuniche. Raccolte le loro poche cose, si avviarono uno dietro l'altro, addentrandosi nell'oscurità che si andava addensando tra gli alberi. Procedettero a lungo, senza vedere altro che la schiena della persona che li precedeva. Arla, davanti a tutti, era l'unica che sembrava orientarsi alla perfezione nelle fitte tenebre, come se il suo sguardo riuscisse a giungere dove quello degli altri non poteva. Ma man mano che si avvicinavano all'accampamento, il fetore si fece insopportabile. A quel punto si fermarono e la donna consigliò loro di tagliare le foglie a sottili striscioline e infilarle arrotolate nel naso. L'operazione portò loro sollievo immediato, perché l'odore pungente della linfa riusciva a schermiarli dal tanfo di corruzione che li circondava. In breve, arrivarono agli ultimi alberi che li separavano dalla piana desolata e dalle sterminate file dell'esercito di Vama, che si stendevano fin dove il loro sguardo riusciva a spingere. Si guardarono un'ultima volta negli occhi, come per trovare la determinazione giusta. Poi si infilarono i cappucci e i loro volti divennero indistinguibili nell'oscurità. Si diressero subito verso nord-ovest, avendo cura di passare il più possibile lontani dai falò che ardevano punteggiando la notte. Era impressionante vedere il numero di necromanti che erano necessari per mantenere il controllo di un esercito di quelle dimensioni. Pur non essendo neppure un centesimo il numero di risorti e di spettri, le loro tende sudice si susseguivano una dopo l'altra fin dove riuscivano a vedere. Camminarono a lungo, i volti ben coperti di cappucci e senza mai rallentare quando incontravano qualcuno. Diana faticava a resistere alla pressione esercitata su di lei dal potere oscuro che permeava l'accampamento. Poteva percepire con chiarezza i rituali che in quel momento venivano officiati chissà dove in quella distesa ininterrotta di tende. Udiva voci che sussurravano osceni sortileggi, il pianto delle vittime immolate alle potenze delle tenebre, lo scricchiolare delle pergamene su cui erano vergati indicibili malefici. Ma quello che la feriva di più, che rischiava in ogni momento di farla impazzire, era che c'era una parte di lei che fremeva estasiata, una parte piccola, ma che era un cancro che sentiva crescere ogni giorno di più. Era inutile ripetersi che lei non era la nera, non lo era ancora, ma aveva una paura incredibile che sarebbe giunto il momento in cui, pur di non farsi sbranare dal male che le cresceva dentro, avrebbe pregato in ginocchio per diventarlo. C'era qualcosa dentro di lei che discendeva dalla linea di sangue e che aveva a che fare con il più puro istinto di sopravvivenza. Qualcosa che l'avrebbe accompagnata fino a che non fosse riuscita a controllare il potere oscuro che le scorreva nelle vene con la stessa facilità con cui muoveva la mano destra. si odiava con tutte le forze per quel motivo, ma non poteva fare nulla per cambiare la sua natura. E si cominciava a rendere conto che non voleva neppure. Potere oscuro era una serpe che le cresceva in seno, ma che era chiaramente parte della sua stessa essenza. Il desiderio di liberarsene era contrastato da una forza ormai quasi della stessa intensità che ne bramava il controllo. Era terrorizzata dai suoi stessi desideri. Diana cercò di ignorare gli infiniti stimoli che la presenza così forte del potere oscuro provocava nella sua mente, inesperta e indebolita. Cercò di concentrare l'attenzione su quello che la circondava. Stavano procedendo silenziosi da più di un'ora e nessuno dei necromanti aveva rivolto loro la parola. Una fortuna che si erano cercati, certo, aveva evitato con cura ogni gruppo di persone che stessero discutendo, ogni falò, ogni tenda aperta, ma c'era qualcosa che non la convinceva. Una specie di sesto senso le stava suggerendo che forse c'era qualcos'altro. Le persone che incrociavano non si limitavano a non notarli, sembravano non vederli. Allungò la mano per toccare la schiena di Tom e per comunicargli quella sua sensazione. Quando incrociò lo sguardo di Arla, a stento visibile sotto il cappuccio, e rinunciò. In quel momento il silenzio era la cosa più preziosa che li potesse accompagnare, e forse le sue sensazioni non erano poi così credibili. In fondo, il potere oscuro che li ammantava le ottenebrava i sensi e non era escluso che le inibisse la capacità di giudizio. Continuò a camminare senza dire nulla. L'accampamento finì da un momento all'altro, senza preavviso. Improvvisamente si trovarono circondati da centinaia di risorti, immobili, gli uni accanto agli altri, come alberi rinsecchiti. Diana non riuscì a trattenere un brivido quando passarono accanto a quei corpi in putrefazione. Solo un potere osceno poteva sorreggere e far muovere secondo il proprio volere. Alcuni dei risorti erano orrendamente mutilati, senza un braccio, senza una gamba, con il torace squarciato. Ognuno di essi, pur nell'immobilità, abbrancava un'arma. Come se il dimostrarsi fedeli e determinati fino alla distruzione definitiva della loro prigione mortale fosse l'unico modo per ritornare al riposo eterno dal quale erano stati strappati. E, con ogni probabilità, era proprio così. Inroth era in piedi da ore sul ciglio del terrazzamento dal quale aveva seguito la cruenta battaglia che aveva avuto luogo sulla piana desolata fino a qualche ora prima. Ora tutto era ammantato dalle profonde tenebre della notte dei notturni. Ma per lui la battaglia aveva avuto un'importanza secondaria, questa volta almeno. L'importante era quello che stava avvenendo dietro le quinte. Lui non era mai stato un amante delle azioni spettacolari, degli atti compiuti alla luce. No, lui aveva sempre amato agire nell'ombra e dietro un manto di menzogne. Era un maestro nel farlo e proprio questo gli aveva consentito di ascendere fino al ruolo che aveva ormai da anni, consigliere di Shaltul, il signore degli abissi. Intrighi e omicidi su commissione gli avevano spianato la strada verso quella posizione di assoluto potere. Non poteva prendere il posto del suo padrone, il potere oscuro era troppo potente in Shaltul, ma non ne sentiva neppure il desiderio. Ordendo le sue trame nell'ombra, gestiva un potere maggiore di quanto non avrebbe potuto fare se fosse stato lui a capo della confraternita. No, andava bene così. Anche questa volta le cose stavano andando esattamente come le aveva previste e pianificate, come succedeva sempre. Per quanto il potere oscuro potesse controllare i suoi avversari e anche i suoi alleati, alla fine era sempre il suo cervello tagliente come la lama di un rasoio ad averla meglio. Il cangiante era riuscito a unirsi all'erede della linea di sangue e al suo accompagnatore. Erano diretti verso la fortezza della solitudine, come aveva sospettato fin dall'inizio, come era logico d'altronde. L'unica persona in tutta notturna che potesse aiutare la ragazza era Linneus. Il suo piano stava funzionando alla perfezione. Il gruppetto aveva superato le linee dell'esercito dei necromanti, fiaccate e distratte dalla battaglia. Il cangiante aveva usato i suoi poteri per evitare che fossero riconosciuti e ora erano in marcia verso nord-ovest, oltre le immobili schiere dei risorti, alle spalle dell'esercito di Vama, impegnato in una battaglia che avrebbe reso senza quartiere. Doveva riferirlo a Shaltul. Si girò e si diresse verso il braciere, dove ardeva una fiamma verdassa su uno strato di ossa. I bagliori che spandeva danzavano sulla roccia e sul viso scarno di Inroth. Il consigliere afferrò una ciotola che i suoi attendenti avevano lasciato lì accanto. Il denso liquido rosso scuro non si era coagulato, quando vi immerse la mano era ancora tiepido. La vittima era morta pochi minuti prima e la coppa era stata posta accanto al braciere mentre lui era immerso nei suoi pensieri, esattamente come doveva essere. Infilò il palmo a coppa nella ciotola e poi sparse il sangue che aveva così raccolto sulle ossa ardenti, la cui fiamma si ravvivò all'istante. Si alzarono vapori purpurei che si srotolarono pigri davanti ai suoi occhi, assumendo forme bizzarre. Inroth mormorò le parole mistiche del rituale e il fumo si cominciò ad agitare inquieto, come se delle forme tentassero di liberarsi e volare via. Poi si squarciò e il volto di Shaltul apparve di fronte a lui. Il consigliere si inchinò. «Saluto a te, signore degli abissi», disse con il suo solito tono mellifluo. ti reco buone notizie. Tom non riusciva a spiegarsi come Arla riuscisse a guidarli in quell'oceano di inchiostro che avviluppava notturno. Lui riusciva a stento a scorgere i suoi piedi e spesso inciampava in sassi o piccoli avvallamenti del terreno, mentre la donna sembrava procedere senza esitazione. Avevano deciso di non utilizzare le torce per evitare di essere visti da lontano sulla piana desolata, dove non c'erano avvallamenti che potessero proteggerli dalla vista dei necromanti. A procedere in quella maniera era una sofferenza. L'unico sollievo era l'essere riusciti dall'accampamento e aver attraversato le schiere di risorti immobili come statue di carne in putrefazione. L'oppressione che aveva percepito nelle ore precedenti si era fatta meno forte, fino quasi a scomparire. Lo stesso doveva essere successo a Diana, perché nonostante si portasse spesso la mano sulla pancia, segno che il dolore stava di nuovo aumentando, sembrava meno triste. «Penso dovremmo fermarci», disse quando non ne poté più di camminare alla cieca. Anche gli ultimi bagliori dei fuochi del campo dell'esercito di Vama erano scomparsi dalle spalle da ora. Non corriamo rischi se ci fermiamo a riposare finché non ci sarà la luce. «Va bene», concesse Arla. Anche lei aveva la voce stanca. Almeno così gli sembrò, perché non riusciva a vederlo in volto. «Qualche ora di riposo, ma niente fuoco e appena ci sarà di nuovo la luce ripartiremo». «Pensi che ci possano vedere?» chiese Diana, che si era accoccolata appoggiandosi a Tom. «Non siamo abbastanza lontani?» «Vama a occhi dovunque», rispose la donna. «È stata davvero una fortuna che il suo esercito fosse impegnato in una battaglia. Le sue spie forse saranno occupate a scoprire le mosse degli evocatori e non ci prestano attenzione. Avremmo dovuto essere molto più cauti se non fosse stato così. E, chissà, forse non sarebbe bastato». «Siamo più vicini alla fortezza della solitudine?» chiese Ariel. «Più di ieri e meno di domani», rispose Arlo in tono provocatorio. Poi addolce un po' la voce. «Non ti preoccupare, Diana, siamo a buon punto». «Hai già un piano su come entrare?» chiese di nuovo Ariel. Tom annuì nel buio. Si era domandato molte volte la stessa cosa. «Non ci sono mai stata», disse la donna, evitando toni polemici. «Credo che dovremo attendere di arrivare lì prima di preparare un piano». «Si narra che sia inespugnabile», insistette il ragazzo. «Dove non riesce a entrare un cavallo, forse può intrufolarsi un topo», si limitò a rispondere Arla. «Tu quindi pensi...» Tom lasciò in sospeso la domanda. «Sì, credo che non si aspettino che un piccolo gruppo di persone tenti di penetrare la fortezza. E spero che i lunghi anni di prigione solitaria di Linerus abbiano convinto i suoi carcerieri che liberare non interessa più a nessuno». «Forse potremmo tentare di travestirci per entrare», propose Diana. Aveva ancora in mente la strana sensazione di non essere vista, che l'aveva colpita quando erano nel campo dei necromanti. Chissà se era possibile che succedesse di nuovo. «Vedremo», la ragazza sentì gli occhi di Arla posarsi su di lei anche se il buio le impediva di vederla.